as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, anche oggi puntata speciale, puntata dedicata all'arte. In questo caso parliamo di arte di strada, parliamo della musica della strada, parliamo di rap impegnato, non solo politicamente ma un rapper che è dalla parte della classe operaia. Oggi abbiamo con noi Tenore, che io non conoscevo sinceramente, ma l'ho scoperto andando a Firenze, stando con i compagni della GKN. Lui è l'autore di dei pezzi che stanno girando sui social, che raccontano un po' la storia della GKN, e sono molto contento di averlo qui oggi in radio. Insomma, è un compagno che adesso lo sentiremo, ci racconterà un po' come sono nati, come è nato il suo gruppo Romanticismo Periferico, che io vi invito a seguire sui social. Lui potete trovare su Facebook in Tenore Mofire, però su Instagram lo trovate come Tenore FI. Ci sono anche i pezzi che lui ha fatto, potete ascoltarli lì. Insomma, adesso lo intervisteremo. Come primo pezzo abbiamo pensato Capolinea, che è un pezzo bellissimo, l'ascolteremo e poi ci sentiamo con Tenore. Ciao, a dopo. Al tramonto battoni ritirati, sopra mezzi di fortuna ancora non verso casa. Stessi pensieri, nulla cambia, ieri come oggi. La radio passa due merdate, un mezzo fa gossip. Siamo in guerra nei quartieri, a scuole e nelle piazze. Dal basso perché il baratro qua non conosce razze. Vite spezzate da cartelle esattoriali, ancora morti sul lavoro che non leggi sui giornali. Mai. Lo Stato lava la coscienza caricando a freddo padri di famiglia privati di uno stipendio. Merde. Pensieri atroci come premere un grilletto. Siamo giunti al capolinea, tutto questo non lo accetto. La solitudine, il freddo che punge l'anima. Abbia smesso di parlarci per questa fretta meccanica. L'indifferenza è sadica, ti attacca e ti contamina. Ma il tempo sta scadendo, dobbiamo voltare pagina. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se puoi vivere vale la pena. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se puoi vivere vale la. Occhi stanchi al tramonto, battoni in ritirata. La mia gente urla lo forte, non è mai cambiata. Ha perso amici in queste strade e brinda la memoria. Ma dirla tutto un ricordo spesso qui non consola. A terra esanimi, la vita ci toglie il respiro. Non lo sappiamo tutti quanti chi è il vero nemico. Tocchi il fondo e più ti fanno sentire un fallito. Mentre non trovi più niente per cui sentirti vivo. La gioia di riprendere tua figlia fuori scuola. Quando non sai se tu potrai permettergliela ancora. Perché la privatizzazione razzia ciò che tocca. E lascia flotte di studenti con l'amaro in bocca. Il vento cambia e noi dannatamente agiati. Ma veramente ci sentiamo emancipati. Fuoco ai sogni, il tempo è nostro anche se sta scadendo. Pure se hanno manomesso ogni tuo sentimento. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se puoi vivere vale la pena. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se puoi vivere vale la. Ciao Tenore, siamo contenti di averti qui in radio. Abbiamo ascoltato un pezzo bellissimo, Capolinea, davvero bello. Vogliamo che ti racconti, devi raccontare a noi, che fondamentalmente io sono sincero, è da poco che ti ascolto, non ti conoscevo prima dell'avvertenza della GKN, vogliamo conoscere un po' la tua storia, i tuoi album, come nasce Tenore FI, e soprattutto come nasce il collettivo Romanticismo Periferico. E ripeto, invito tutti a seguire le pagine Facebook, questo collettivo composto da tanti ragazzi e tante ragazze, legato ai centri sociali, da quello che posso vedere sui social, quello che posso ascoltare dalle vostre canzoni. Raccontaci un po' da dove venite, chi siete, come siete nati. Ciao a tutti, sono Simone, in arte Tenore, vengo da Firenze, dalla periferia nord, e niente, faccio rap da quando ho 15-16 anni. Ho intrapreso questo percorso registrando i miei primi pezzi con mezzi di fortuna a casa di amici. Non conoscevo ancora la scena, che ben presto poi ho avuto modo di scoprire, e quindi ho dovuto iniziare appunto dalle basi. Il rapporto con il rap appunto nasce da un'esigenza di esprimere quello che non riuscivo tramite la scuola, tramite la vita di tutti i giorni a trasmettere, e quindi la scrittura mi ha aiutato molto. E nel 2010 appunto, dopo anni di gavetta dove tutto è rimasto nel cassetto, decidiamo insieme ad altri due compagni della mia zona di tirare su il gruppo Esercito Ribelle, formato da tre persone. Poi negli anni la formazione cambia, rimaniamo in due, comunque sia il progetto va avanti incidendo dischi. Cito questi due dischi, Esercito Ribelle Street Album, Prima Linea Mixtape, tutta musica improntata su tematiche sociali e di denuncia sociale. Quello che ci ha sempre caratterizzato e che comunque sia ha caratterizzato il mio percorso, perché poi sono rimasto fondamentalmente solo prima di conoscere altri due ragazzi che poi si sono uniti alla mia musica. Balle Blu e Massiccio, che saluto. E niente, abbiamo poi formato successivamente ancora il progetto Romanticismo Periferico, che è un'etichetta indipendente discografica che gravita nel territorio fiorentino. Cerchiamo di dare un'alternativa a tutta quella che è la mercificazione musicale, a tutto quello che ci propina il mercato della musica. Abbiamo un piccolo studio di registrazione dove i ragazzi possono venire a registrare la loro musica, insomma imparare a fare i beat, perché abbiamo diversi beatmaker che compongono basi. Insomma, siamo un collettivo composto da più persone e cerchiamo appunto di dare un'alternativa. Nel febbraio del 2021, l'anno scorso, è uscito sotto etichetta sempre Romanticismo Periferico il mio primo EP solista, Storie Comuni, che parla appunto delle storie comuni, la vita di tutti i giorni. Allora, io ti ho conosciuto con i pezzi Insorgiamo e Ivan, pezzi legati alla vicenda della GKN. Ti ho visto alla fine della manifestazione in cui avete organizzato insieme ai tuoi compagni un bellissimo live, una manifestazione tra le più belle che abbia mai partecipato, a settembre, in cui c'erano tantissimi, c'era tutta Italia in quella manifestazione per difendere la GKN. E noi vogliamo capire tu come hai conosciuto i compagni, come li hai frequentati, tu hai partecipato a questa vertenza, io ti ho visto più volte in manifestazione. Vogliamo capire come si è avvicinato, come questo collettivo è riuscito a legare così tanto con questi compagni fino a fare delle canzoni per loro. Cosa ti ha portato vicino a questi operai? Allora, diciamo che il pezzo Insorgiamo nasce dalla necessità di mettere a nudo ciò che dal 9 luglio sta succedendo all'interno dei cancelli GKN di Firenze, 9 luglio 2021, giorno in cui 500 persone dall'oggi al domani vengono mandate a casa con una mail.

tu non sei lì in fabbrica, ci hai spiegato insomma che non lavori lì, fai parte di un collettivo, hai appoggiato come tanti compagni a Firenze la loro lotta. Voglio capire cos'è rimasto nella società a Firenze di questa battaglia, cosa c'è ancora in ballo, questo motto Insorgiamo si è placato oppure è lì che sta per esplodere? Come pensi possa essere utile per tutti i lavoratori di Firenze e per tutti i compagni di Firenze per poter cambiare la società partendo da Firenze ma andando in tutta Italia? Tu come la vedi? Cosa dovremmo fare noi per poter cambiare la società e per migliorare le condizioni di tutti i lavoratori? Soprattutto anche questioni sulla sicurezza. Tu hai fatto un bellissimo pezzo, il ricordo di compagni morti a Milano su quella gru. Insomma, vogliamo sapere da te come vedi il futuro di questo Insorgiamo. Ti ringraziamo, Tenore, è stato un piacere averti qui con noi. Guarda, metteremo le tue canzoni perché la nostra trasmissione parla di lotte operaie e tu sei uno che le racconta, le canta e per questo meriti di andare in onda e di essere conosciuto. Grazie mille, Tenore. Ivan nasce in una serata molto afosa di agosto, dove Ivan appunto ci invita all'interno dello stabilimento, in quella che dal 9 luglio è diventata una fabbrica dormiente, e ci mostra quali fossero le sue mansioni, i macchinari ancora incelofanati, tutto quello che si è fermato, insomma, la vita della fabbrica. E Ivan è una persona totalmente alienata, perché non esce di casa da tanto tempo, da tanti anni, la sua vita si riduce soltanto a lavoro, casa, casa, lavoro. È una persona in preda a solitudine, depressione, ansia, al di fuori dove la famiglia non ha altro. E quindi Ivan allo stesso tempo è cosciente della sua posizione, è arrabbiato, ce l'ha col padrone, e però alla fine crolla, si commuove e ci ringrazia. Quando in realtà paradossalmente noi viene da pensare, ma cavolo, siamo noi che dobbiamo ringraziare te, non te che devi ringraziare noi, te ci stai dando lezioni di dignità. E da lì appunto io decido di fare questo pezzo, esco dalla fabbrica e dico, cavolo, come Insorgiamo devo assolutamente fare qualcosa, prendendo spunto da questa esperienza che sto vivendo. E allora, insieme all'aiuto di Mistilla, che è una ragazza anche lei musicista di Firenze, che ha realizzato il ritornello, riesco a formare questa canzone, a ultimare questo pezzo, che poi è uscito appunto il 12 di dicembre. E niente, per quanto riguarda invece il rapporto col territorio fiorentino, ma te lo dicevo prima, è una cosa nata molto spontanea, è venuta subito alla luce la solidarietà, è venuta fuori l'aggregazione, tutti i valori che fuori si sono un po' persi, no? Però almeno qui nel territorio quello che ho imparato nel corso di questi anni è che se toccano qualcuno della famiglia ci sono le stesse persone che comunque sia si sentono parte integrante e agiscono di conseguenza per salvaguardare quella famiglia, gli stessi compagni, le compagne, chi passa dal presidio per il pranzo, chi fa i turni la notte. Insomma, si è creata una situazione che a parer mio fuori non esiste. Io, parlando personalmente, quando entro dentro per la fabbrica mi sento a casa, perché so che si è creata una famiglia, e questo penso sia la cosa più importante. Per quanto riguarda la lotta a Firenze, beh, le realtà sono diverse, chiaramente come in tutte le città non è facile convergere delle volte assieme, però diciamo che questo non è stato il caso, anzi. Quindi fa veramente piacere, al di là della vicissitudine dei lavoratori, però che questo senso di appartenenza sia venuto a galla, soprattutto in un momento come questo, ecco, diciamo. Credo che fondamentalmente in ballo ci sia il futuro di tutti e tutte noi. In ballo c'è GKN come TechSprint di Prato, come le lavoratrici e lavoratori di Marradi, di Marron Glacé. E la solidarietà, se è un'arma, va sfruttata fino in fondo. Noi in quanto musicisti cerchiamo di fare, come ti dicevo prima, la nostra parte, perché è fondamentale. C'è bisogno di ragazzi giovani, c'è bisogno di tematiche improntate su questo tipo di dinamiche, appunto, perché la nostra musica è troppo fondamentale per sprecarla in, per come la vedo io, autocelebrazione, soldi e mercificazione. Non c'è più tempo, no? E quindi tutti dobbiamo fare la nostra parte. Credo che il motto Insorgiamo, appunto, sia soltanto l'inizio, mi auguro, e lo spero, e non un arrivo. Quindi insorgiamo per il futuro, insorgiamo per noi, per la classe lavoratrice, che ora più che mai ce n'è bisogno. Niente, noi ti ringraziamo a nome di Romanticismo Periferico, ti ringrazio io per questo spazio, per la tua disponibilità. E un saluto a Bologna, a Radio Fucico. Grazie mille, ciao ciao. Ti ringraziamo, tenore, è stato un piacere averti qui con noi. E, guarda, metteremo le tue canzoni, perché la nostra trasmissione parla di lotte operaie e tu sei uno che le racconta, le canta, e per questo meriti di andare in onda e di essere conosciuto. Grazie mille, tenore. Usciva più di casa dal 99, l'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Ivan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semiassi mentre odia forte il padrone. Ivan con il cappuccio in testa fa la ronda in bicicletta, sembra proprio una staffetta di qualche anno fa. Sopra via l'asfaltati, quanti sogni rubati in una fabbrica dismessa che non mollerà. Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. Come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. N non è ancora finita, quindi sorgiamo per un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. Ivan fa la guida mentre passiamo tra i macchinari, robot in celofanati, pezzi per Fiat e Ferrari. In questa vita, amico mio, non saremo mai pari, ma conosciamo entrambi chi sono i nostri avversari. Ivan non conosce la forza che sprigiono ogni volta, se mi guarda e poi mi dice non ti arrendere. Maledice chi lascio, non si unisce alla lotta, non dà retta a quelle voci chiuse dentro te. Questo presidio eternamente vorrei che durasse, là fuori cosa hanno da offrirmi a parte le carcasse. Sento l'estate tra postazioni e risate, le birre e le pasta asciutte da cui voi non ci spostate. Ivan si ora ha preso coscienza, riconosce i suoi compagni e il senso di appartenenza. Lui che arriva la notte, aspetta il cielo che alpeggia per riempire sto vuoto che nell'aria più aleggia e fa. Come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. A me non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. G come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. A me non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. G come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. A me non è ancora finita, quindi insorgiamo, credi in un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. Cicco messa grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. vuoi. E non è ancora finita, quindi insorgiamo. Credi in un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. Allora, io sono qui per le conclusioni. Abbiamo ascoltato Tenore FI, Tenore Firenze, Simone, un compagno. A me ricorda tantissimo gli Assalti Frontali. Questo per me è solo un complimento, visto quanto stimo gli Assalti Frontali e come sono stati importanti per la nostra storia di lotte e di movimenti. Dico solamente una cosa: io penso che dobbiamo raccogliere l'appello di Simone, dei compagni del GKN. A Bologna il 6 febbraio, domenica, alla palestra Gino Gilli, ore 17, che è di fronte al Circolo Guarnelli, in via Gandusio, sotto al ponte di Stalingrado, ci saranno i compagni della GKN, nella GKN Tour, in preparazione della manifestazione del 26 marzo. Mi raccomando, tenetevi liberi, perché il 26 marzo si insorge. Ci sarà questa grande manifestazione, i compagni saranno in giro in tanti luoghi d'Italia. Seconda tappa a Bologna, domenica 6 febbraio, ore 17, palestra Gino Gilli, di fronte al Circolo Arci Guarnelli, mi raccomando, in via Gandusio, sotto il ponte Stalingrado. Lo ripeto perché mi deve rimanere in testa. Ci vediamo lì, ascolteremo i compagni da GKN, ci prepariamo per insorgere. Mi raccomando, tenetevi pronti per il 26 marzo. Siamo tutti GKN, questo è il messaggio più importante, i compagni hanno sempre detto, l'avvertenza non è finita, ma anche se fosse finita quella GKN, continua l'avvertenza della classe operaia italiana, per noi è importante insorgere, per tutti quanti noi. Ci sentiamo alla prossima puntata e compagni, è stata una bellissima puntata oggi, veramente, mi sono emozionato. Ciao a tutti, alla prossima! Ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. Oh, tu camorra, fino a che ce ne sarà. Che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. Oh, tu camorra, fino a che ce ne sarà. Che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. Davanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo lì con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me.